Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo di Confindustria, parliamo di economia italiana, parliamo della storia dell'Associazione degli Imprenditori, che è anche l'associazione a cui fa capo il gruppo del Sole 24 Ore, il gruppo del 24 Ore che ha anche una casa editrice, e da questa casa editrice è stato pubblicato il libro di Alberto Rioli. Buonasera Alberto Rioli. Buonasera a te Gianfranco e buonasera a tutti gli ascoltatori. Alberto Rioli, attualmente vice direttore del Sole 24 Ore, e dopo tanti anni che è il Sole 24 Ore, quanti anni? Sono entrato nel trentesimo. Nel trentesimo, quindi 30 anni di Sole 24 Ore, e anche sulla base di questa esperienza ha scritto un libro, un ponderoso libro, che si intitola Figli di papà a chi? Storia del movimento che ha cambiato la Confindustria. Di che cosa si parla, Alberto Rioli? Si parla della storia del movimento, perché loro ci tengono a chiamarsi movimento, dei giovani imprenditori di Confindustria, cioè il gruppo che era stato fondato alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60 da Lorenzo Vallarino Gancia, che poi via via ha accompagnato la storia dell'associazione dei senior, la storia dell'associazione di Confindustria, con strappi, con posizioni dialettiche, con polemiche interne anche piuttosto esplicite. Insomma, è la storia di un gruppo di classe dirigente, di industriali under 40, che via via ha tentato di proporre un'agenda diversa da quella che le contingenze storiche proponevano nel corso degli anni, e che, devo dire, ha avuto ragione di quell'agenda, perché è praticamente la storia del riformismo più o meno mancato dell'Italia. Seguire, ecco, i giovani... Indubbiamente si può dire un movimento che ha accompagnato, hai detto, la storia della Confindustria, ha accompagnato, ha spinto, ha dato qualche strattone alla Confindustria, un movimento fatto appunto da giovani, forse chiamarli giovani fino ai 40 anni possono partecipare i giovani imprenditori, sono persone comunque che hanno una responsabilità d'impresa e sono sentiti di dover fare qualcosa in più che non nella rappresentanza ufficiale. Sì, esatto, nascono, diciamo così, sull'onda del cambiamento epocale mondiale degli anni 60 sostanzialmente, perché ci tengono a proporre un'immagine diversa dell'essere industriale e del fare industria, diversa da quella che era poi rappresentata dalla Confindustria di Angelo Costa, che sostanzialmente trattava direttamente con i partiti o addirittura con i gruppi all'interno dei singoli partiti e gestiva in quel modo diretto la propria lobby. I giovani imprenditori sono nati perché volevano aprirsi alla società e proporre un'immagine più civile, diciamo, nel senso di più aperta, più di confronto con gli altri spezzoni di società, e navigare nel mare aperto del confronto delle idee. Quindi un'ipotesi soprattutto culturale, soprattutto di apertura, non quell'ipotesi di scambio di favori o di piaceri che poteva esserci prima, che era anche un po' dovuta come segni dei tempi. I tempi forse richiedevano una Confindustria di un certo tipo negli anni 50 e poi ci volevano dei cambiamenti negli anni successivi. Ecco, chi ha fondato questo movimento è stato Lorenzo Vallarino Gancia, o sbaglio? Sì, Lorenzo Vallarino. Ecco, forse significativo ricordare che è stato anche colui che per alcuni anni ha presieduto il Sole 24 Ore, che negli anni 70 è stato anche uno dei fautori anche dell'apertura dello stesso quotidiano a non solo agli interessi specifici dell'imprenditore, ma a diventare un giornale che si confrontasse apertamente con la realtà editoriale italiana e internazionale. Quindi Lorenzo Vallarino Gancia è stato quello che ha dato un po' il là al movimento dei giovani imprenditori. Sì, esatto, ci teneva moltissimo a che ci fosse un'idea diversa dell'industria e dell'impresa, cioè un'impresa aperta alla società che si confrontasse con le controparti sindacali in modo non solamente dialettico, ma anche tentando di capire e di portare innanzi un'idea più partecipativa, che era poi quella che prendeva corpo negli anni 60. E soprattutto ci tenevano a creare una cultura d'impresa che fosse accompagnata da un'idea di responsabilità sociale, una responsabilità civile, di partecipazione attiva anche alla politica, laddove intendiamo come politica la politica alta, cioè la partecipazione alla Confindustria, che in fondo era alta, era di alta rappresentanza. In quei tempi c'è stato il presidente Giovanni Agnelli, Guido Carli, Vittorio Merloni, Luigi Lucchini, tutte grandi personalità industriali. Si confrontava a questo movimento fatto di persone che solo apparentemente erano di secondo piano. Sì, in realtà erano leadership giovani ma piuttosto robuste, molto impegnate anche sul terreno della politica. Penso a Pozzoli, che comunque veniva da un'esperienza radicale poi confluita nell'esperienza dei giovani repubblicani, che aveva sostanzialmente rappresentato il momento di massima rottura tra la rappresentanza junior e quella senior, con una decisione di dimissioni molto eclatanti rispetto alla linea di condotta scelta da Carli quando ha deciso di cooptare Medici quale vicepresidente della Confindustria. Medici era il presidente della Montedison, certo, allora considerato l'esempio più tipico della classe dei boiardi, sostanzialmente. Cioè, dell'establishment politico-economico. Politico-economico, la razza padrona, sostanzialmente. Ecco, in antitesi a quel tipo di scelta, Pozzoli si dimise con un gesto che fece molto rumore, che caratterizzò moltissimo questa fase di forte dialettica tra giovani e senior. Successivamente non ci sono stati momenti così acuti, però effettivamente una differenziazione su alcuni dei temi c'è sempre stata, e soprattutto i giovani hanno tentato di anticipare, di vedere un po' prima quale poteva essere l'agenda del futuro. Penso per esempio all'euro, alla moneta unica, che i giovani vagheggiavano già alla fine degli anni 70 come approdo culturale. Ancora non se ne parlava nemmeno dell'euro, ma già vedevano la possibilità di avere un'Europa un po' più consolidata all'interno, con una moneta, cosa che poi accadde. Certo. Penso per esempio alla suggestione forte che li ha accompagnati nel corso di vari decenni sull'idea del Mediterraneo come area di sbocco commerciale, come area di ruolo di business leader dell'Italia nei confronti per l'attrattività dei traffici internazionali, e soprattutto per un'idea diversa anche di Europa e di bacino della sponda sud, sostanzialmente dell'Europa, che avrebbe a quel punto la massima centralità anche da un punto di vista economico. Penso anche al termine globalizzazione, che è un altro di quei termini che utilizzano alla fine degli anni 70, inizio anni 80, quando ancora non fanno parte della vulgata, nemmeno della vulgata giornalistica, ma già invece fanno parte di una forte elaborazione all'interno del movimento dei giovani, che già ha capito sostanzialmente quale poteva essere l'impatto poi delle delocalizzazioni e delle crescite economiche dei paesi emergenti, che poi si verificheranno di lì a qualche anno. Ecco, in qualche modo questo gruppo, questo movimento dei giovani imprenditori è stato anche una scuola poi per diventare, avere le responsabilità nella Confindustria vera e propria. Pensiamo a Luigi Abete, Antonio D'Amato, Emma Marcegaglia, che sono stati presidenti dei giovani imprenditori, che hanno portato la loro dose di innovazione in questo gruppo e che poi sono diventati presidenti di Confindustria. Esatto, quella è stata proprio il suggello, la sanzione esplicita di quanto fosse stata importante quella che a loro non piace chiamare palestra di leadership associativo, ma che in realtà di fatto lo è stata, perché appunto riuscire a rappresentare ben tre presidenti senior provenendo dal movimento dei giovani effettivamente ha reso onore all'attività di lobbying culturale che era stata fatta fino a quel momento, e di formazione anche per avere ruoli di primo piano di leadership nell'associazione dei senior. Forse questo può rappresentare una svolta effettivamente su cui adesso si devono confrontare i giovani, nel senso che nascevano come movimento, ma riuscendo a rappresentare addirittura la presidenza dell'associazione dei senior rischia di diventare istituzione, per così dire. E questo è un tema che al loro interno effettivamente ogni tanto ritorna, emerge con differenti posizioni e che un pochino, diciamo così, li mette in crisi culturalmente, nel senso che loro si rendono perfettamente conto che hanno un po' esaurito quella spinta degli inizi, quando era così dirompente, così diversa rispetto all'attività dei senior. Adesso rappresentanza dei giovani e rappresentanza dei senior sostanzialmente spesso condividono con qualche nuance diversa l'agenda e le priorità, e quindi è un momento di svolta nel libro. Il libro finisce con quello, sostanzialmente con la necessità di fare un nuovo inizio, che probabilmente sarà la sfida dei prossimi presidenti. Ecco, presentando il libro a Milano, l'attuale presidente Giorgio Squinzi ha detto che quando lui non ha avuto occasione, un po' si è dispiaciuto di non aver partecipato in passato al movimento dei giovani, ha detto che si iscriverà come membro ad honorem del prossimo gruppo dei giovani imprenditori. In questa prospettiva comunque i giovani hanno ancora un ruolo da svolgere, anche perché il problema per esempio del passaggio generazionale è un problema che è sempre aperto e che è ancora molto vivo all'interno delle imprese. Forse i giovani, prima abbiamo parlato appunto dei grandi temi della globalizzazione, potrebbero e dovrebbero impegnarsi anche sui fronti più squisitamente, non diciamo locali, ma di nazionali, di gestione operativa di un'industria che deve trovare comunque una propria capacità di rispondere a nuove esigenze di una ripresa che sarà diversa da quelle precedenti dopo la lunga crisi che abbiamo vissuto. Sicuramente c'è un grandissimo spazio, e un po' lo stanno occupando per un'attività di maieutica, diciamo così, di impresa per le nuove imprese, cioè scommettere moltissimo sulle nuove start-up, quelle legate al grande passaggio sull'innovazione, sulla ricerca, sull'espansione che appare infinita delle possibilità del business che viene attraverso il web e attraverso questa grandissima innovazione delle stampanti a 3D, che è l'altra grande cosa che caratterizzerà il futuro. C'è solo un altro problema che i giovani hanno di fronte, e probabilmente sono quelli più titolati a poterlo risolvere. Il fatto che per convenzione, per conformismo culturale di questi tempi, l'essere giovani è di per sé un valore. Questa cosa naturalmente non è vera, l'essere giovani è di per sé un valore se a fianco a questo c'è talento, c'è il premio del merito, c'è un percorso efficace nella possibilità di far veicolare determinate idee e se c'è soprattutto appunto talento, talento sì. È la parola chiave più ancora che giovani, però appunto adesso i giovani, visto anche l'età che del presidente del Consiglio attuale, sono sicuramente sulla breccia, sono sulla parte davanti del palcoscenico. Però toccherà proprio ai giovani probabilmente selezionare il meglio della gioventù in modo da poter evitare di farsi dire che c'è stato un passaggio generazionale ma è andato sprecato. Anche perché questa società 2.0, come peraltro possiamo chiamarla, come tu stesso la chiami nella conclusione del libro, è una società in cui gli imprenditori non sono solo i figli di papà, sono anche molti che stanno realizzando delle start-up, molti che stanno nascendo proprio dal basso, anche grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie. Quindi è possibile che in un futuro che già sta crescendo adesso, figli di papà, chi non sia più il titolo adatto per parlare tra 20 anni del nuovo movimento dei giovani imprenditori? Sì, già adesso peraltro è un titolo provocatorio perché appunto il Movimento dei Giovani Imprenditori ha circa 13.000 iscritti, di cui quasi il 40% sono imprenditori di prima generazione, quindi non sono figli di papà sicuramente. E anche quelli che hanno comunque il blasone, sono figli di papà, hanno in realtà, contrariamente a quello che la vulgata vuol far credere, hanno una doppia responsabilità, quella di rispettare il blasone e di poterlo portare innanzi innovando ancora di più. Quindi è davvero difficile essere figli di papà mantenendo l'idea di essere imprenditori di successo. Comunque questa storia si intitola Figli di papà a chi? È una storia che si può leggere come un romanzo, anche se è una storia molto reale, parla di noi, parla della società italiana, parla dell'economia italiana, parla dei protagonisti di questa economia italiana. Grazie ad Alberto Iori di essere stato qui con noi questa sera, abbiamo parlato del suo libro Figli di papà a chi? Storia del movimento che ha cambiato la Confindustria, sono quasi 400 pagine, edito dal Sole 24 Ore per 25 euro. Grazie anche a Filippo Reggi in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.